Capitolo 15. Cressida. Lucy dormì poco quella notte. Al primo bagliore di una straordinaria alba estiva era in piedi a preparare la colazione al viaggiatore. Aveva fatto un cambiamento improvviso da fanciulla schiva e alquanto fredda donna innamorata e ansiosa. Forse l'anello con sigillo al dito medio era un anello magico e aveva operato l'incantesimo. L'avviso della partenza di Frank era stato così repentino che si era visto costretto a rivolgersi per varie necessità a Darrell, che insieme a Lord Watergate aveva provveduto a fornirgli i principali capi dell'equipaggiamento adatto ai tropici. La sua nave salpava quel giorno alle 12 in punto, per cui c'era poco tempo da perdere. Si presentò al 20B ad un'ora irragionevolmente mattiniera, dato che c'era molto da dire e una breve opportunità per farlo. Lucy, dimostrando una combinazione prettamente femminile di tenerezza e praticità, preparò il suo bagaglio, legò con una cinghia le coperte e fece domande inquisitorie sui suoi preparativi per il viaggio. Come una donna è solita fare, ormai l'aveva preso sotto la sua ala e da quel momento in avanti i più piccoli dettagli della sua esistenza, per lei, sarebbero stati più importanti di ogni altra cosa al mondo. Gertrude, dopo aver baciato il giovane volto vivace in un commiato fraterno, guardò i due innamorati affrettarsi alla stazione e nel suo intimo si fece domande sulla loro serenità. Più tardi quel giorno, entrando nello studio, trovò Lucy tranquillamente impegnata a posizionare un negativo nel torchietto da stampa. «È il suo», disse alzando lo sguardo con un sorriso. «Non ho mai sentito il diritto di farlo prima d'ora». A pranzo Phyllis le ricordò che quella sarebbe stata la sera della conversazione del signor Darrell alla Galleria Barclay, per la quale aveva spedito loro due inviti. «Non c'è da aspettarsi che Lucy venga, dovrai accompagnarmi tu, Gertie», annunciò. Gertrude era piuttosto contrariata all'idea di andare e disse: «Non può accompagnarti Fanny». «Edward e io ceneremo dai Septimus Pratt», rispose Fanny. Dopo aver esitato un bel po', sia lei che la promessa sposa si dovettero rassegnare all'inevitabile e rinunciare ai vantaggi di un'accompagnatrice per Phyllis, una mancanza di decoro che il signor Marsh, in particolare, deplorò. «Sei molto turbata per questa festa», perorò la sua causa Gertrude. «Oh, Gertie, ovvio. E se tu non vorrai accompagnarmi, andrò da sola», gridò Phyllis con insolita veemenza. Gertrude si indignò per il tono della sorella, poi riflette che forse era difficile per Phyllis rinunciare a una delle poche occasioni di festa che aveva. Phyllis in verità non era stata troppo bene ultimamente e richiedeva più premure che mai. Tossiva di continuo e aveva occhi lucidi oltre il normale. Gertrude finì con il sottomettersi al sacrificio e alle 10 in punto lei e Phyllis si ritrovarono in Bond Street, dove le sale erano già affollate. Phyllis splendeva di una tale bellezza che meravigliò anche sua sorella e la rese un soggetto perenne di attenzione in quella brillante adunanza. Il suo scollato abito grigio mostrava la bianca e rotonda esilità delle spalle e delle braccia. I morbidi capelli castani erano raccolti sulla nuca perfetta, in modo tale da lasciare ammirare il collo e i suoi movimenti aggraziati. Gli occhi brillavano come stelle, le guance erano delicatamente accese di un rosa delizioso. Ovunque andasse, la precedeva una dolce e intensa fragranza, il profumo di un incantevole rametto di tuberosa che era allacciato al suo bustino e che le era arrivato in regalo quel giorno da un anonimo donatore. L'accoglienza di Darrell, riservata a entrambe le sorelle, era stata delle più brevi. Aveva stretto senza sorridere le mani di Phyllis, mentre lui e Gertrude avevano allungato la punta delle loro dita in un gelido e fugace contatto, senza sollevare lo sguardo. E Gertrude si sentì umiliata per aver presenziato a quel ritrovo. Non aveva più visto Darrell dalla sua anteprima, più di 6 settimane prima. E ora, mentre stava parlando con Lord Watergate, i suoi occhi, guidati da un'indicibile curiosità, un'inesplicabile fascinazione, ne andavano in cerca. Sembrava malato, così pensava, mentre lo guardava starsene nel suo posto di padrone di casa, vicino all'entrata, a parlare con una donna vecchia e brutta che lei sapeva essere la duchessa di Kilburn. Malato e decisamente infelice. La felicità, infatti, come d'istinto sentiva, non era per un individuo come lui, un uomo egoista e materialista. Il suo fine intuito femminile, affilato forse dal rancore personale, aveva fatto centro sull'uomo e sulla sua natura di secondo ordine. Sotto l'arroganza e la convinzione di risuonare indubitabili successi, lei leggeva i segni di una fama quasi vile di preminenza, di un'autocoscienza morbosa, di un'insaziabile vanità. E quando a tutte le eccellenti doti della sua abilità professionale non riusciva a intravedere nel suo lavoro le tracce di quelle qualità che combinate con una maestria anche minore della sua possono fare la grandezza. Quanto al proprio rapporto personale con Darrell, le posizioni dei due erano un po' mutate dall'inizio. Nei brevi incontri che avevano avuto era stato silenziosamente messo in scena un dramma, una guerra priva di parole o armi, dalla quale finora era uscita vincitrice. Perché Sidney aveva smesso di considerarla come se fosse semplicemente ridicola e lei, per parte sua, non era stata più intimidita dalla sua personalità aggressiva, dal suo sguardo setacciatore e languido, dai suoi modi altezziosi e incuranti. Si trovavano su una piattaforma di tacita, seppur evidente, avversione, che alla prima occasione sarebbe scoppiata in una sfida effettiva. Lord Watergate, come dicevo, stava parlando con Gertrude, ma il suo sguardo, come lei fu veloce a capire, deviava costantemente in direzione di Phyllis. Si era già interrogata su questo punto, in quale misura ammirasse sua sorella. Le pareva che le pagasse il tributo di un interesse più profondo di quello che la sua bellezza e il suo splendore nel corso naturale delle cose esigessero. Quanto a Phyllis, si stava godendo il trionfo che molte bellezze riconosciute avrebbero invidiato. Le persone si raccoglievano attorno a lei, studiando il modo per esserle presentate, guardandola con manifesto apprezzamento, ridendo alle sue stravaganti sortite. Quella giovane ha una carriera spianata di fronte a lei. Chi è? Oh, una delle scoperte di Darrell. La vuole in una bottega di fotografia, dicono. Darrell le sta facendo un ritratto. No, non il ritratto, ma uno studio di Cressida. Cressida? I suoi occhi, le sue guance, le sue labbra, persino i suoi piedi parlano. Taci, taci! Qualche tronco galleggiante della conversazione era stato trasportato dalla corrente oltre il cantuccio di Gertrude ed era stato afferrato non da lei, ma dal suo compagno. Lord Watergate corrugò la fronte, mentre a memoria completava la citazione che lo turbò tanto da scioccarlo. Aveva inconsciamente adottato un atteggiamento protettivo nei confronti delle ragazze Lorimer. Il loro coraggio, l'ardimento, la loro profonda inconsapevolezza facevano appello alla sua natura magnanima e cavalleresca. Prese la decisione di parlare a Darrell di quella chiacchierata infondata riguardo Cressida. Gertrude, dal canto suo, non era troppo assorbita dalla conversazione da non notare quello che stava facendo la sorella. Vide immediatamente che, a dispetto di un po' di eccitazione per l'appagamento della vanità, non si stava divertendo. C'era una luce inquieta e insoddisfatta nei suoi occhi, un'incuranza come di stanchezza nella sua postura, mentre si appoggiava al bordo di un alto paravento, che riempirono Gertrude di domande e ansietà. Sentiva, come le raccontava, capitato di sentire spesso ultimamente, che Phyllis, la sua piccola Phyllis, che aveva rimproverato e coccolato e amato per 18 anni, stava oltrepassando il dominio della sua comprensione per addentrarsi in regioni nelle quali lei non avrebbe potuto seguirla. La serata trascorse lentamente, come fanno le serate di quel genere, in andirivieni senza scopo, tiepidi tentativi di conversazione, numerosi incroci di sguardi e incursioni programmate al banchetto del rinfresco da parte di persone che hanno sontuosamente desinato un'ora prima. Le nostre istituzioni sociali inglesi, disse Darrell in disparte a Lord Watergate, l'anteprima privata, dove chiunque va, la conversazione, dove nessuno parla. Lord Watergate rise e tornò da Gertrude per proporle una sortita al buffet come diversivo, e Sidney, con la sua imperscrutabile aria disinteressata, si fece strada fra la folla sino al punto dove Phyllis era impegnata a conversare con due giovani. Si fermò a qualche passo da lei e rimase in silenzio a osservarla. Phyllis gli lanciò uno sguardo per metà impaziente, per metà implorante, come quello di un bambino. Era tarda serata e quello era il primo tentativo di approccio che faceva con lei. Darrell avanzò di un passo o due e Phyllis abbassò gli occhi per un immediato e vivo rossore. Finalmente, disse Darrell a bassa voce quando i due giovani istintivamente si ritirarono davanti a lei. Siete arrivato appena in tempo per dirmi buonanotte, signor Darrell. Darrell sorrise, accostando il proprio viso a quello di lei. Il suo sorriso veniva considerato affascinante. Sembrava più generoso perché la freddezza era scomparsa. Non è una buonanotte, ma un addio, quello che sono venuto a porgervi. Il sorriso brillante e fugace aveva attraversato il viso senza lasciare traccia. Cosa intendete, signor Darrell? Intendo che domani partirò. Per i secoli dei secoli. Phyllis rideva mentre pronunciava queste parole, diventando pallida. Per diversi mesi ho un affare importante a Parigi. Ma non avete terminato il mio ritratto, signor Darley? Sidney distolse lo sguardo, mordendosi un labbro. Vi sarà possibile terminarlo in tempo per la galleria Grosvenor? Può darsi di no. Allora siete odioso, protestò Phyllis alzando la voce. E ingrato per giunta, dopo tutte quelle interminabili ore di posa. Ingrato no. Vi ringrazio, vi ringrazio, vi ringrazio. Coperto dalla folla, aveva afferrato entrambe le sue mani e le aveva strette con violenza a ogni ripetizione, mentre i suoi occhi vili guardavano imploranti quelli di lei. Mi fate male! La sua voce era bassa e spezzata, si tirò indietro spaventata. Addio, Phyllis. Gertrude, di ritorno un minuto dopo dalla sala del rinfresco, trovò Phyllis sola, nell'angolo formato da uno dei paraventi, con le labbra livide, gli occhi lucidi e vuoti. Torniamo a casa, disse Gertrude raggiungendola. No, benissimo, rispose ridestandosi. Prima è, meglio è. Non mi sento bene. Mise la mano sul fianco. Ho di nuovo quella solita fitta di dolore. Lord Watergate, che si trovava un po' in disparte, la stava osservando e si fece incontro, le offrì il braccio e tutte e tre lasciarono la stanza. Nella carrozza Phyllis si riacquistò un po' della consueta vivacità. È un guaio che il signor Darrell se ne vada per lungo tempo e non sa quando riuscirà a terminare il mio ritratto. Gertrude trasalì. Beh, suppongo che tu abbia sempre saputo che fosse un eccentrico. Parli come se ne fossi contenta, Gertie, sono davvero delusa. Non riporre la tua fiducia nei principi, Phyllis, né negli artisti del momento, che sono anche più importanti dei principi al giorno d'oggi. Rispose Gertrude, sperando intimamente che il loro rapporto con Darrell non venisse più rinnovato. Si è stancato del suo capriccio, pensava, indignata, eppure sollevata. Fu la stessa signora Marion ad aprire loro la porta. Phyllis fremette di disgusto mentre salivano al piano di sopra. Quell'uccello del malaugurio piangeva senza fiato. Povera signora Marion, come puoi essere così sciocca? Disse Gertrude, che da parte sua notò il lungo e sincero sguardo che la donna aveva rivolto alla sorella. Nel salottino trovarono Lucy che cucinava pacificamente al lume della lampada. Hai passato in piedi tutta la notte scorsa. Non dovresti startene qui seduta, disse Gertrude, liberandosi del suo mantello, mentre Phyllis staccava con cura il rametto di tuberosa dal bustino e intanto rimuginava fra sé il torto subito per la seconda volta. Poi, raggiunto il caminetto, mise i fiori in uno stretto vaso veneziano, con i vetri decorati di lamine dorate che le aveva dato Darrell. Prese in mano il vaso e, senza una parola, andò impettita di sopra. Non so che pensare di Phyllis, commentò Gertrude. Temi che nutra troppo interesse nei confronti del signor Darrell? Sì. Non le importa un fico secco di lui, disse Lucy con la precisa convinzione di chissà quel che predica. La sua vanità è ferita. Ma non sono convinta che sia un male per lei. È quel genere d'uomo che seduce, iniziò Gertrude, ma Lucy la interruppe. Perché, Gertie, a cosa stai pensando? Deve avere almeno 40 anni. E Phyllis è una bambina. Qualcosa nella sua voce richiamò a Gertrude quel trionfale squillo di tromba nella meravigliosa lirica. Oh, il mio amor è giovane. Ad ogni modo, disse lei, mentre si preparavano per andare a dormire, ringrazio il cielo che le sedute siano giunte alla fine. Phyllis potrà volgere la testa altrove. Mi sembra che sia seriamente malata, per di più, e la convincerò ad accettare l'invito dei Devonshire per il mese prossimo. Capitolo 16. Un matrimonio. Il giorno dopo, alle 6 in punto, erano appena risalite dallo studio quando venne annunciata e raggiunse il piano di sopra Constance Devonshire nel suo abito più elegante con il più benevolo sorriso sul viso. Sono venuta a porgerti le mie congratulazioni, disse avvicinandosi a Lucy. Sai, ho sempre pensato che il piccolo Jermyn fosse una bella persona. Lucy rise pacatamente. Sono felice che tu mi abbia portato le tue felicitazioni di persona, Connie. Invece mi aspettavo avresti detto al cocchiere di lasciare i biglietti alla porta. Connie girò improvvisamente il volto da un'altra parte. A cosa serve venire a trovare persone tanto impegnate come voi siete state ultimamente, e con così tanti corteggiamenti in corso e tutti nello stesso momento? Cosa pensa di tutto questo la signora Marion? Oh, temo lo trovi noioso e banale. Vedi, aggiunse Phyllis, che oziava pigramente in una poltrona alla finestra, smunta ma vivace. Il ritmo del vero amore in questa famiglia procede in modo così monotono e tranquillo, e la signora Marion invece trova più gusto in quello drammatico. Connie rise. A questo punto si spalancò la porta e apparve zia Caroline, il cui sorriso fisso e imbalsamante aveva l'obiettivo di mostrare che era di buon umore e fu interpretato dalle ragazze come un segnale di tregua. Cos'è questa storia che mi ha riferito un uccellino, Lucy? Chiese con malizia perché la signora Pratt condivideva con il suo sesso la predilezione per gli affari matrimoniali. L'uccellino, che aveva diffuso la notizia, che di fatti non era altri che Fanny, piegò la testa sul lato con aria innocentemente vaga e sorrise con benevolenza alla sorella. Mi sono fidanzata con il signor Jermyn, disse Lucy mentre la sua voce limpida indugiava con orgoglio su ogni parola. Connie trasalì all'improvviso. Quindi dalla finestra tornò a fissare quell'altra a battenti bianchi sopra la sala del banditore. Dunque avete scoperto chi è il signor Gerwin? Proseguì la zia, ancora nel suo tono più conciliante. Non abbiamo mai voluto saperlo, rispose Lucy mostrandosi inaspettatamente combattiva. Zia Caroline avvampò, ma era venuta determinata a combattere in caso di scontro, nelle quali occasioni fino ad allora si era ritrovata sopraffatta dalla forza dei numeri. Così si trattenne dicendo. E avete qualche prospettiva matrimoniale? Al momento Frank è partito per l'Africa, disse Lucy. A zia Caroline sembrò un'informazione eloquente. Spero solo, disse poi a Fanny, che l'accompagnò al portone esterno, che tua sorella non sia caduta nelle mani di un avventuriero senza scrupoli. Ci sarà tempo per il signor Pratt quando il giovanotto farà rientro a casa, semmai lo farà, per fare le indagini appropriate. Fanny era entrata nelle sue grazie fin dal giorno del fidanzamento. Anche il signor Marsh si era conquistato opinioni d'oro a Lancaster Gate. Io credo, replicò Fanny, parlando per una volta fino al punto, che Frank Jermyn scriverà lui stesso al signor Pratt alla prima occasione. Nel frattempo, al piano di sopra, in soggiorno, Connie stava confidando la propria opinione riguardo al fatto che le ragazze si fossero comportate vergognosamente nei confronti della zia Caroline. Ha diritto di sapere, ed è proprio lodevole da parte sua interessarsi di un gruppo di ragazze del tutto ingrate come voi, disse. Non potete pretendere che chiunque altro oltre a voi consideri Frank Jermyn come un dono caduto dal cielo. Zia Caroline è complessa, ma la si può giudicare in un'unica volta, dichiarò Gertrude. Ben presto Constance la so per andarsene, non vi vedrò di nuovo finché non sarete voi a venire giù da noi, cosa che suppongo non farete, disse. Venerdì partiamo per Eastbourne e subito dopo andremo ad Amburgo. Mia madre vi scriverà per invitarvi in una forma adeguata. È molto gentile da parte della signora Devonshire. Luce e io non possiamo in alcun modo lasciare la casa, ma a Phyllis piacerebbe venire, rispose Gertrude, un'osservazione alla quale la stessa Phyllis non fece caso. Bene, allora arrivederci. Lucy, Fred ti manda le sue congratulazioni. Phyllis, mia cara, ci rivedremo fra poco. Fanny, cercherò di trovare il tuo matrimonio sul giornale. Andiamo, Gertie, accompagna fuori la tua amica. Dall'altro lato della porta il suo atteggiamento cambia improvvisamente. Vieni a casa per cena, Gertie? Non posso in nessun modo con. Gertie, immagino non vuoi venire per Fred, benché sapessi già che non era una buona idea, non posso fare a meno di rimanerci male. Questo era fuori discussione, povero ragazzo. Oh, non compatirlo troppo, si riprenderà presto. Il suo non è un malessere senza rimedio. Ci fu un'enfasi significativa sulle ultime parole che non sfuggì a Gertrude. Mi sembri star meglio, Connie, dall'ultima volta che ti ho vista. Oh, sto bene, non c'è niente che non va in me a parte le troppe feste. Penso che ballare ti faccia bene. Ballare non so, ho cominciato a sedermi in qualche serra sotto lampade rosa, che è lo sport migliore e molto più consono alla carnagione. Non giocherei a quel gioco, Connie, non finisce mai bene. Invece sì, spesso a St. George in Hanover Square. Sembri stravolta, ma non contemplo il matrimonio, perlomeno non ora. Ma ti vedo d'accordo con Castler Lard. Non amo questo modo di danzare, questo gioco di coppie. Sarebbe molto meglio mischiare i danzatori piuttosto che stare a sedere. Ogni ragazza in disparte insieme al suo compagno. Ti stai dando la letteratura? Sì, ai poeti moderni e ai romanzieri francesi in particolare. Quando sentirai parlare di me la prossima volta, avrò probabilmente iniziato a visitare i bassi fondi. Avrò trovato la pace nel portare gelatina dei vecchi mendicanti. Quindi, potresti scrivere un racconto morale su di me. Gertrude sospirò, mentre la porta si chiudeva su Constance. Erano stati i Devonshire che nei loro momenti di difficoltà avevano dimostrato alle Lorimer la più incrollabile delle bontà. E proprio i Devonshire, a quanto pareva, erano state condannate a portare sfortuna. Alla fine di agosto Fanny si era sobriamente sposata nella chiesa di Marylebone. Le sarebbe stato tanto piaciuto un matrimonio bianco ed in segreto sperava che le sorelle le suggerissero ciò che lei non usava. Una sposa, il raso bianco e damigelli in mussolina bianca. A dire il vero, un'idea del genere non sfiorò neanche la mente di queste giovani donne avvezze alla vita pratica e la povera Fanny andò all'altare vestita con semplicità in un abito da viaggio verde scuro che non era quasi più da festa. Zia Caroline e zio Septimus giunsero da Tunbridge Wells per le nozze e i Devonshire, che non erano in città, diedero in prestito la loro carrozza. Fu una cerimonia modesta e senza eccessi per due sposi di mezza età e furono tutti contenti quando terminò. Zia Caroline parlò poco, ma si accontentò di lanciare il suo sguardo duro e tagliente su ogni cantuccio e ogni angolo, ogni cavità e ogni piega, ogni piatto e ogni scodella, mentre in testa calcolava il costo della festa. Uno dei risultati dello scontro con le nipoti fu che esternamente appariva più gentile, mentre internamente era meno benevola di prima, un cambiamento da non disapprovare del tutto. Lucy, con occhi sfavillanti, con l'aria di chi ha un bel diritto a essere interessato, ascoltava le parole dell'ufficio matrimoniale, facendo poi suoi al solito i particolari pratici. Era sostenuta senza dubbio dalla consapevolezza della lettera nella tasca, una lettera arrivata quella mattina scritta su una carta leggera con mano ferma, e in comune con le altre provenienti dalla stessa fonte era vivace e gentile, tenera e piena di speranze e zeppa di dichiarazioni confidenziali su tutto ciò che riguardava lo scrittore. Phyllis, pallida ma bellissima, alternava l'indifferenza a una felicità intermittente. Le 3 settimane a Eastbourne sembravano averle fatto un po' bene. Invece Gertrude portava a termine la sua parte meccanicamente e ricordava tra i rimorsi di non essere mai stata molto condiscendente con Fanny. Mentre per quanto riguarda la sposa, era sottomessa e in lacrime, come una sposa ortodossa dovrebbe essere. Invitò tutte le sorelle a venire a stare a turno da lei a Notting Hill subito dopo la luna di miele in Svizzera. Edward Marsh offriva l'abituale scarsa importanza dello sposo, ma fece tutto quello che gli era stato richiesto alla perfezione. La sera, quando quel vuoto che immancabilmente segue ogni matrimonio piombò anche sulle sorelle Lorimer, la signora Marion venne nel soggiorno a intrattenerle con racconti su diverse spose che aveva conosciuto, che, se non si fossero sposate in fretta, avrebbero avuto di certo, a giudicare dal seguito, tutto il tempo per pentirsene con comodo.